Like a bird, questo è il nostro new hit per quest'ora. Nelly Furtado si chiama l'autrice, la cantautrice. I'm like a bird, sono come un uccello. E ragazzi, questo forse è una canzone perfetta per aprire il nostro programma, nostra viva voce, perché si tratta proprio di quello. Di cosa? Allora ascoltate l'argomento di stasera. Radio Tour. Radio Tour, the moving station, presenta Viva Voce. Allora, innanzitutto fammi presentarmi. My name is Fergal Kavanagh. Con me abbiamo Gino Palombo, DJ Banderas al console. Grazie a Luca che ci ha trattenuto per le ultime due ore. Molto interessante quell'argomento e poi magari ne riparliamo dopo. Però voglio aprire prima il nostro obiettivo stasera, di parlare di quello che io credo. Bah, non voglio dare mia parere. Ragazzi, c'è troppo sesso in Italia o no? C'è troppo sesso in televisione? Vediamo troppe donne nude sull'edicolo per strada, c'è lo sfruttamento delle donne, eccetera. Io credo che posso essere molto obiettivo su questo fatto, perché essendo prima un uomo, le mie istinti naturali sono di apprezzare queste cose e dire wow, bellissimo, ma quando mai che c'è troppo in televisione, eccetera. Però essendo un irlandese cattolico cresciuto così, in Irlanda non ci sta niente del genere, non si vede cose che si vedono in Italia, quel punto mi sconvolgo a vedere tutte questi fatti. E quindi qual è la vostra barriera? Il nostro numero in diretta è 081 790 1411, e poi c'è sempre il GSM Box 0348 2438 888. Ok, prima di continuare con la musica voglio salutare a Jackie. Povero Jackie, sta a casa, c'ha la febbre. Infatti ci siamo parlati prima, anzi ho parlato io, lei non ha parlato molto. Oh Jackie, get well soon. Viva voce! A kind! Quello è Anastasia, mi fa piacere, lei è una donna che c'ha ancora le sue morale. Dice, io non sono quella tipa di ragazza, che rimane sempre in tema col nostro programma stasera. Allora, stavo parlando proprio del sesso in televisione. Magari non il sesso è quello come immaginate, due persone, un uomo e una donna insieme, però anche la donna nuda che si vede in televisione. Sabato sera stavo guardando un po' Fiorillo e devo dire, c'era quel tipo, come si chiama, Sabrina Ferrilli, che aveva una gonna proprio, non si resteva niente da immaginare, era tutto lì. Io mi sono rimasto sconvolto, ma si può fare così. E poi la ballerina è pazzesco, ragazzi. Coming through the light, that's Bumblebee on Radio Tour, the moving station. Oggi stiamo parlando un po' del sesso in televisione e anche un po' del sesso che si vede un po' ogni giorno per strada, tipo l'edicolo che magari è... Io sono un po' così, che in Irlanda non abbiamo queste cose. E quando sono sceso dall'aereo la prima volta, molti anni fa, sono arrivato in Italia, ho visto questi edicolo con queste riviste porno, eccetera, tutti in pieno evidenza. Ho detto, ma che è questa cosa? Certo, da allora ho visto che alcuni edicolo mettono lì nastri, adesivi, etichette, eccetera, sulla parte più, diciamo, esplicito per proteggere questo, però tanti non la fanno. E poi se uno pensa alle differenze che ci sta con la paese da dove vengo io, l'Irlanda, e qua in Italia. Allora, in Irlanda prima di Natale c'era un grande polemica del fatto che un'attrice si è posata nuda, e quindi si vedeva solo il seno, per un tipo di profumo, e c'era proprio un casino di gente che telefonavano e dicevano questa pubblicità non può andare, e infatti l'hanno ritirato. E quindi in Irlanda nemmeno il seno nudo si può far vedere. Anzi, seno, che parole strano. A me il seno chiaramente si riferisce a una parte femminile lì, però è una parola maschile. Va bene, vedete voi. Comunque, due messaggi che sono arrivati qua. Uno parla del lato positivo, l'altro parla del contro, il pro e il contro. Allora, Raffaella ha detto, è disgustosa, mi sento sfruttato e guardato dai uomini ogni volta che passeggio per strada. Va bene Raffaella, ok, questo è un buon parere, speriamo che non sia così grave, però possiamo magari capire. E poi Antonio ha scritto, il corpo umano è un capolavoro e non c'è niente più bella di quello di una donna nuda. Ok, sono d'accordissimo con te pure lì, però la bellezza anche forse si fa vedere da solo in privato, il mistero. Io dovrei dire che preferisco vedere una donna poco vestita invece di una donna totalmente nuda, così la mia immaginazione va in attività, eccetera. Ragazzi, voi che ne pensate? Il nostro numero in diretta è 081 790 1411, e il nostro GSM box per scriverci un bel messaggio è 0348 24 38 888. Aspettiamo vostra opinione, perché l'argomento sta riscaldando. Viva voce! Kravitz with Again. Wow, Lenny Kravitz, proprio un bellissimo uomo, e possiamo apprezzarlo anche se non leve le vestite, no? Perché praticamente quando noi vediamo un uomo, vabbè, questo è come lo vedo io, che guardo un uomo come uomo, apprezzo come si muove, eccetera, e non voglio vederlo nudo. Mentre le donne è un'altra cosa, la vedo così come si muove e ammetto, vabbè, meglio non dirlo. Radio Tour in Tour. Radio Tour in Tour. In tour per San Valentino, metti in mostra il tuo cuore, la tua lettera d'amore mai consegnata, quella che conservi da sempre, quella che avresti voluto scrivere. Inviala allo fax 081 551 5594, oppure chiamaci alle 081 790 1411. A San Valentino Radio Tour diventa l'angolo dell'amore all'interno della mostra Batticuore a Napoli, a Castel dell'Uovo. E i nostri programmi in tour ogni giorno in diretta da Ice Park, un vero e proprio villaggio invernale con pizzeria, giochi e per la prima volta a Napoli una pista di pattinaggio su ghiaccio sulle spalti di Maschio Angino. Pattinare costa solo 10.000 lire all'ora, e per i nostri ascoltatori c'è lo sconto del 20%, una Coca-Cola ed in anteprima un tubo delle nuove Pringles Hot and Spicy. Per avere il pass per tour basta iscriversi subito alle 081 790 1411. Il sbaglio più grande, Laura, era proprio di iniziare a registrare il primo giorno, lo posso dire? Vabbè, forse è meglio di no, comunque ha fatto della bella cosa. Allora è arrivato un messaggio qua, non firmato. Scusa, ma se scendevi alla stazione di Monaco di Baviera, dove le donne nude te le sbattono in faccia, veramente? Cioè, che te le sbattavano in faccia, veramente? Che facevi? Una buona domanda. Allora, io sono stato a posti del genere dove si vedono un sacco di ragazze per strada nude che te le sbattono in faccia, come dici tu. Infatti, questo è una cosa, eppure si vede qua in Italia questa cosa. Però il mio problema in Italia è che voi siete come noi irlandesi, un paese cattolico, e perciò è un po' ipocrite che avete pure queste cose qua. Quella è la mia risposta, che ne pensate voi? Stando Eminem on Radio Tour, The Moving Station. Wow, ragazzi, è lunedì sera e piove fuori, che cosa c'è da fare? Oh, io so che farei io, e se quando voi tornate a casa volete la comodità, comfort, colore e calore, il consiglio di Radio Tour è Divanomania. Il divano che desideri e la qualità che cerchi con il prezzo comodo. Divanomania in via Boccaccio 36 a Casoria, telefono 081 540 41 93. E adesso per Fabio, Luigi e Eleonora, Marisa, tutti quanti che sono a casa di Luigi a cenare, queste sono le Intralazzi and Frati featuring Joanne Acquamarina. Supreme, un amore proprio supremo, sta cercando Robbie Williams. Vabbè, lui c'ha tutti i soldi che vuole, quindi non è che deve cercare. Anzi, forse i soldi non può comprare l'amore. Vabbè, povero Robbie Williams, allora diciamo. Ragazzi, straordinario questo fatto. È il numero di cellulare della Sabrina Ferrelli. Mi è arrivato questo messaggio. Allora, prima parlavo del fatto che Fiorello aveva come ospite sabato sera, e che lei portava una gonna proprio, non lasciava niente da immaginare, bocche aperte dappertutto, mamma mia. Comunque, poi subito dopo mi è arrivato un messaggio non firmato che ha detto: sono orgogliosa. Wow. Allora, non sapendo di che si riferiva, posso solo associarlo al fatto che è la Ferrelli che ha detto: sono orgogliosa della mia comparsa sabato sera e lo farò di nuovo. Grazie Sabrina, ci sentiamo dopo. Sabrina ed io. Red Hot Chili Peppers, and These Smiling Eyes Are Just a Mirror for the Sun. Si chiama, questa canzone si intitola, anzi, Road Tripping. Allora, messaggi sul GSM Box 0348 24 38 888. Domi e Giussi hanno scritto, hanno detto: finalmente dopo tanto tempo ci siamo ritrovati in macchina a fare. Ma che avete capito? Abbiamo mangiato le frittelle e i panzerotti. Vabbè, buon appetito, speriamo che stavano bene. Comunque, non sarebbe fuori dalla nostra tema se stavate a fare quello che diciamo pensavamo noi, perché stiamo parlando del sesso. Ci sta troppo sesso in Italia o no? Perché sopra, io vado sopra Posillipo e vedo tutti i giornali parcheggiato con i giornali a posto eccetera, non si vede da nessun'altra parte, ragazzi. Step, that's Craig David, Walking Away. Ladies and gentlemen, the clock. Le 21 e 6 secondi. Radio Rabe di Paolo, questo è il nostro new hit per quest'ora. Si chiama De Vuelta e Vuelte, che se non sbaglio vuol dire from time to time in inglese. In italiano è che ne sa gioio, volete troppo da me, lo spagnolo in inglese non vi basta. Anyway, I'm Fergal Cavan, e sto facendo questo viva voce in assenza di Jackie. Povero Jackie, c'ha la temperatura, la febbre stasera. E c'è Gino con me, Gino Banderas a fare il DJ. E il nostro tema stasera sul viva voce, ragazzi, stiamo parlando del sesso. Ci sta troppo sesso in giro, cioè in senso non il sesso fa bene, però troppe donne nude in televisione, in edicolo eccetera. Stavo pure pensando della musica, se non sbaglio poco tempo fa, non molto fa, c'era una canzone dell'estate che si chiama non mi ricordo, però parlavo delle tette, che belle sono le tette di questo ragazzo, oscene. E poi a proposito c'era l'unica frutta dell'amore, che chiaramente era abbastanza chiaro di che si trattava. E siccome verso quest'ora mi arriva sempre il fame e siamo in tema, l'unica frutta dell'amore, che vi dico, ragazzi, ascoltate questo classico e buon appetito, questo banana qua. In italiano oppure fatto da Paolo e Turci. Non ho mai avuto il piacere di sentire questa versione, però wow, che bello sentire Susan Vega e Luca. Mi ricordo mio cugino che lo suonava una volta, non lo suona più perché adesso si è messo a scrivere brani propri, però lo faceva bellissimo, in versione bellissima pure lui. Comunque, Radio Tour The Moving Station presenta Ice Park, un villaggio invernale con giochi, spettacoli, ristorò e per la prima volta a Napoli un pista di pattinaggio su ghiaccio, tutti i giorni dalle 10 alle 24, un evento comune di Napoli, Coca-Cola, Pringles e Radio Tour. Ice Park, Napoli, Maschio Angino, Radio Tour c'è. Chilling è il titolo del brano. Mojo, sono il gruppo due francesi. Allora 0348 24 38 888. Stiamo parlando del sesso, di diffusione di porn e di tutte le donne nude che si vede nell'edicolo e sul televisore eccetera in Italia. È arrivato un messaggio da Manuska e Skipper. Allora dice: bello questo soggetto, questo tema, però non mi racconta niente della loro opinione. Comunque, povero Skipper, c'ha la febbre, mi dispiace. Vabbè, è meglio averlo quando piove fuori, sei d'accordo o no? Vabbè, se sei a casa e lo sei, Skipper, allora mettiti a ballare con Carlo Grieco e Luca. Kelly Joyce with Vivere la Vie on Radio Tour The Moving Station. You're listening to Viva Voce. Allora, Viva Voce, dove tagliamo spazio a vostra opinione su un argomento già deciso. Allora, oggi stiamo parlando un po' del sesso, come è diffuso dappertutto. Vabbè, il sesso è una cosa buona, però il fatto che le donne magari vengono trattate come oggetti e che pure sull'edicolo si vede queste donne nude, non si può fare due passi né accendere il televisore senza vedere una donna gratis. Gratis? Ma che sto dicendo? Nudo. È giusto o non è giusto? Questo è Gino che mi sta parlando in cuffia. Ok, al telefono adesso abbiamo Giacomo. Giacomo, am I pronouncing your name correctly? Sì, perfettamente. Ciao. Ecco, allora capisci bene l'inglese. Ciao, buonasera. Buonasera. Allora, tu mi hai scritto un messaggio dicendo: se uno scende alla stazione di Monica di Baviera, le donne nude te le spattano in faccia, veramente. Allora, tu sei andato a Monica, hai visto questa cosa? Queste cose? Sì, alla stazione di Monaco di Baviera la situazione è molto peggiore che in Italia. Volevo dire che in effetti noi in Italia siamo piuttosto moderati rispetto ad altri paesi europei. Ok, ma tu sei d'accordo o meno di queste cose che si vede a Monaco? Cioè, se le cose succedesse qua a Napoli, saresti pure, non dico contento, però sarebbe una cosa, vabbè, questa è la vita, come va? Sì, oddio, in effetti non è una cosa che mi riguarda personalmente, quindi, cioè, se c'è, ai ragazzi, insomma, penso faccia piacere, per cui, insomma, no, in effetti a me non è che importi più di tanto, ecco. Mm-hmm. Però, insomma, diciamo, potrebbe dare fastidio, ecco, se cammini con le bambine. Sì, infatti, perché io... Sì, essendo irlandese, io mi sono proprio sconvolto a vedere tutto questo sesso così apertamente, pure andando sul, non sull'autostrada, sul secondario, e ho visto sulle statali tutte le donne che si mettono in evidenza, eppure loro sono nude lì. Io mi sono meravigliato, perché se io fosse padre e andesse a Bari, diciamo, con il figlio in macchina o la figlia in macchina, diecenne, non vorrei che guardasse questa cosa. Tu che ne pensi? Tu sei mamma o c'hai... No, sono insegnante. Mm-hmm. Vabbè, puoi essere anche mamma, cioè la mia insegnante era una mamma pure una volta. Comunque, essendo, se tu avessi dei figli, lo vorresti tranquillamente... No, soprattutto se sono piccolini, però comunque crescendo, cioè magari gli mettere la mano davanti se fossero piccoli, però non sono cose che si possono impedire. Se questa è la realtà, finché non si fa male a nessuno, credo che si possa fare. Questa è la mia opinione. Ok, perfetto. E poi è molto interessante sentire una donna dicendo queste cose, perché io, se fossi una donna, sentirei un po' sfruttato di questo fatto. Tu non senti questo? Infatti abbiamo avuto un messaggio all'inizio di programma di una ragazza che ha detto: è disgustosa, mi sento sfruttato e guardato dai uomini ogni volta che scendo di casa. Beh, forse se non vuole essere guardata non ti mette la minigonna, che ti devo dire? Sì, è infatti una bellissima, è un buon argomento. Vabbè, ognuno è libero di guardare, non gli si può impedire. No, sono d'accordo con te, sono d'accordo con te, però io sono un uomo, quindi per me è molto più facile di dire di sì. Comunque, Giacomo, ti ringrazio e insomma ci sentiamo presto, and thank you very much for your opinion this evening. Ok, ciao. Okay. Viva voce! Sì, alzate il volume di questo radio, because you're listening to Radio Tour, the Moving Station, lunedì sera, e domani è martedì. E che fare, ragazzi? Alzate il volume, come dicono articolo 31. Radio Tour in Tour. Radio Tour in Tour. In Tour con Fabio Brescia ogni martedì sera al Dry Dock via Cinzia Napoli. 100% Black Music e Two Step. Art Director Antonio Gerard. Radio. Questo Trouble dai Coldplay. E durante Radio Taxi, Luca stava parlando del Napster e di scaricare i CD, eccetera, per scaricare la musica, a proposito dei prezzi di CD, eccetera. E io, a proposito dei Coldplay, direi che non è troppo comprare questo compact, perché è bellissimo. Però a proposito di un gruppo come The Beatles, però devo dire, io sono appassionata ai Beatles, quindi non mi fraintendere, però è un furto vendere un album di 27 brani che hanno non meno di 30 anni ad un prezzo pieno. Quello è la mia parere su questo argomento. Vabbè, quello è un altro argomento, stiamo parlando di sesso stasera su Viva Voce. Alright. You're listening to Viva Voce. Allora, voglio salutare a questo che non ha firmato, ha detto Fergal, forse è l'Irlanda che è rimasto un po' troppo indietro con i tempi, però è eccitante pensare che ci sono ragazzi come te. Wow, grazie. Pronto? Pronto! Connessione telefonica. Request one. Radio Tour! Yeah, you're listening to Radio Tour. It's time for Just For You. And thank you, Juicy, for calling and asking for one of my favorite songs. Questo sono gli U2 and Beautiful Day. Tutti a Juicy, dottore del greco, che ha da poco finito di studiare ed ora io le sto facendo tanto compagnia. Hai una voce bellissima, dice, vai forte. Wow, grazie Juicy. E poi hai riscritto dicendo, a proposito del nostro argomento su Viva Voce, io penso che i valori non esistono più e che anche esperienze importanti come quelle sessuale vengono sottovalutate tantissimo. Sono d'accordo con te, questo è infatti l'argomento di cui stiamo trattando oggi, il sesso, siccome si vede dappertutto tutte queste donne nude, eccetera, e non c'è più il mistero, eccetera, eccetera. Vostro parere sul 0348 24 38 888. E stasera musicalmente siamo in tema. All'inizio abbiamo sentito un brano di nome Sono come un uccello, e poi questo è Coolio. Ragazzi, che giornata pieno di pioggia oggi, e io ieri ho perso l'ombrello. Mannaggia, io dico mannaggia, perché non potevo perdere l'ombrello in agosto? Proprio adesso quando piove la perdo. Comunque ho procurato un altro ombrello che è enorme, come praticamente è come un parasole per il mare, e sono tornato a casa. Di solito me lo metto ad asciugare questo ombrello vicino all'ingresso. Ho provato di metterlo lì adesso, però no, non ci entra, anzi se lo metto lì nessuno entra in casa più. E perciò che ho fatto, l'ho messo in bagno, non c'era spazio, l'ho messo dentro la vasca, e ci sta una favola. Allora lì adesso quando ascolto Alex Britti penso al mio ombrellone. Girls con il loro messaggio Let Love Lead the Way, che magari è giusto a chiudere questa trasmissione, questo Viva Voce, dove abbiamo parlato del diffusione del sesso, delle donne nude, eccetera, la foto che si vede per strada, in televisione, eccetera. E quindi loro dicono fa l'amore portarti su quella strada dove volete andare. E quindi sì, il sesso senza amore negativo, il sesso con amore positivo. Vabbè, forse è un buon modo di concludere questa trasmissione. Grazie a tutti voi che avete contribuito questa sera, mi ha fatto molto piacere. Non lo so se abbiamo fatto una conclusione, nessuno mi ha detto sì c'è troppo, nessuno mi ha detto no non c'è abbastanza, sarà per un altro giorno. Ragazzi, spero che Jackie tornerà con voi domani, anzi spero che ci sentiamo noi presto, però spero che Jackie get well very soon. E a voi grazie, e io vi saluto, grazie a Gino. Rosanna sta arrivando tra poco, a voi, alla prossima. Ladies and gentlemen, the clock. Radio Tour. Le 22. Radio Tour.